e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sai la forza che ha un sorriso, tu sorridi. Canzone migliore per aprire questa nuova puntata, se non con La forza del sorriso, la canzone che Andrea Bocelli ha dedicato ad Expo 2015. Hai ragione Deborina, perché per tutta la settimana Cuore Denari è in diretta da Cibusa Italia all'interno di Expo, sì. Quindi venite a trovarci, esatto. Ma venite a trovarci perché c'è un fiocco rosa a Cuore Denari, siamo felici e altro che sorriso, veramente a me batte il cuore, perché vi devo raccontare che oggi in libreria, e lo racconto subito alle nostre amiche che non sono delle donne di denari, sono delle donne di cuore. Ma io spero che loro apprezzeranno lo stesso, qui abbiamo come testimoni che portiamo un po' a battere questa grandissima novità di Cuore Denari, con Maria Rita Gismondo che è direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, e con Lucilla Titta, ricercatrice nutrizionista del progetto Smart Food promossa dall'OIEO, due donne che si occupano di salute, per festeggiare invece Donne di Denari, che è il libro che Deborah ha fatto uscire oggi. A me batte un po' il cuore perché mi sento un po' una zia, vi dico, allora a tutte le donne all'ascolto, che lo sai che oggi è così, Donne di Denari, il che non vuol dire che non dobbiamo occuparci del nostro cuore, della nostra salute, ma tanto è vero che la prefazione è la tua, infatti, ecco. Però le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi, un libro scritto da una donna dedicato a tutte le donne, perché lo sappiamo, no, che donne e soldi è un binomio, è una relazione è un po' complicata, non difficile, non vorrei più utilizzare questo termine, è complicata, c'è un po' qualche resistenza ad occuparsi di certi argomenti. In realtà ho fatto fatica a dimostrare la superficialità delle donne nell'affrontare le questioni economiche, perché non lo sono affatto, sono più prudenti, conservative, per cui ho scandagliato questo mondo e ho fatto delle scoperte molto interessanti. E allora Donne di Denari, edito di Agostini, è proprio una notizia freschissima che vogliamo commentare con due donne di cuore, la donna che sussurra i batteri, la professoressa Gismondo, e la donna che sussurra il metabolismo, la dottoressa Titta. Allora, Donne di Denari. Innanzitutto complimenti, finalmente. Ci vuole un applauso, sì, dai. Sì, però non mettetemi così in imbarazzo, perché la puntata non è su questo argomento. Parleremo anche d'altro. Ne facciamo un'altra puntata un'altra volta. Sì, ma questa è una notizia che i nostri ascoltatori vogliono avere in anteprima. Possiamo darla dopo? Assolutamente no, anche perché è utile anche per chi cerca fondi per la ricerca. E quindi imparare a sapere utilizzare il denaro o a procurarlo è importante anche per chi lo fa non a scopi solamente personali. La cosa incredibile è che, fatto questo libro che ha un po' l'ABC della finanza per le donne che non si sono mai avvicinate molto a questo tema, in realtà mi stanno uscendo molti altri spunti per potenzialmente fare un secondo step su, affrontando e approfondendo anche questi aspetti, per l'appunto. Per cui grazie del suggerimento, ottimo. Congratulazioni, Lucilla, innanzitutto è un argomento che a me interessa molto, mi sono molto riconosciuta in quello che hai detto, perché è vero che non è che non ci capiamo, ma in realtà abbiamo questo atteggiamento prudente, io soprattutto imprudente mi sono riconosciuta, e quindi lo comprerò. Le donne fanno un milione di cose, per cui allora è facile dire sei superficiale di quegli argomenti, non ti interessi, no, è perché in realtà dobbiamo occuparci di un miliardo di altri aspetti della vita, per cui lì viene un po' messo da parte quell'argomento, ma quindi si può fare venite tutto. A trovarci, perché grazie. Naturalmente vorrei dedicare un'intera puntata e più puntate a questo tema, perché ci faremo guidare per trovare le strategie vincenti, per da trovare Deborah. Le fonti dove andare a cercare le informazioni, non vorrei neanche passare da maestrina, perché lo sai che poi no, però venite a trovarci, scriveteci, andate anche in libreria, trovate naturalmente nelle migliori librerie d'Italia. Certamente. Deborah Rosciani con una copertina davvero straordinaria, è molto carina, sì. Basta. Allora basta, chiudiamo, ma non andiamo all'altro argomento. I nostri amici aspettavano invece nel allora, tema di oggi. Lo studio di Radio 24 è situato all'ingresso del padiglione Cibusa Italia nella zona est di Expo. A me Nicoletta troverete qua ancora per tutto il resto della settimana, ci potete trovare anche l'intera, quasi l'intera programmazione di Radio 24, appunto, con altri programmi che trasmettono in diretta da qui. Ieri, lo avrete sentito anche dai nostri giornali radio, è stato un giorno di proteste per gli allevatori del settore lattiero caseario, proteste che abbiamo visto al valico del Brennero, ma che sono arrivate fino al cuore dell'Unione Europea, a Bruxelles, e anche lì erano proprio gli allevatori italiani ad essere in prima linea. Ci sono tante battaglie che stanno portando avanti, non ultimo, e questo sarà un aspetto dal punto di vista economico che approfondiremo questa mattina, il fatto che sulle nostre tavole arrivano formaggi, latticini che spesso sono confezionati con latte in polvere. Questa produzione era proibita in Italia, l'Unione Europea si è l'ha sdoganata con grandi difficoltà appunto per i nostri produttori, e quindi sentiremo anche a che punto è questa lotta. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per intervenire in diretta, e naturalmente la notizia ci offre lo spunto per parlare di latte e di yogurt. Il primo, lo sappiamo, divide, c'è chi lo consuma ogni giorno, chi invece lo ha eliminato completamente dalla dieta, mentre il secondo, lo yogurt, raccoglie consensi perché nell'immaginario collettivo questo prodotto è un alimento salutare per il contenuto di probiotici, microorganismi di cui la ricerca si sta occupando da anni. Proprio in questi giorni una ricerca tutta italiana ne sottolinea l'azione nella prevenzione di asma e allergie. Quindi oggi portateci a casa vostra, diteci se consumate il latte vaccino, l'avete sostituito con latte di origine vegetale, soprattutto se fate uso di probiotici, in quale forma, per quale obiettivo, per mantenervi in salute, per recuperare invece la salute. Ne discuteremo naturalmente con le nostre esperte. Quello dello yogurt è peraltro un settore anche molto vivace dal punto di vista economico, intanto perché è un prodotto su cui l'industria lattiero-casearia spinge in termini di innovazione, introducendo nuovi gusti, nuovi formati, prodotti che rispondono alle modalità di consumo. Sono almeno 24 milioni le famiglie italiane che lo consumano regolarmente. Infatti, sappiamo bene, al supermercato, nel nostro negozio di fiducia, possiamo scegliere fra centinaia di vasetti, bottigliette di yogurt che interpretano in modo, possiamo dire, quasi contemporaneo questo latticino che qualcuno ha definito evergreen. Va bene per ogni stagione, anche quando si sta a dieta, e quindi chiederemo conferma alle nostre esperte. Ci sono i prodotti tradizionali, ci sono gli yogurt specifici per bambini, ci sono quelli da bere, quelli un po' più corposi e consistenti. Ho trovato anche queste definizioni: quelli a bicompartimento, quelli colati, quelli magri. Insomma, voi quale tipologia consumate, quale tipologia preferite, quanto spendete per un vasetto di yogurt? Andate magari anche dal produttore di dietro casa, dove lo acquistate? 800 24 00 24, insomma, tantissimi temi da affrontare con noi stamattina. Arrivano i buoni, arrivano, arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa... Sì, sono quelli buoni, probiotici, probios, a favore della vita. Chi non li conosce, almeno di fama, sono microorganismi viventi che ingeriti determinano effetti benefici sulla salute. Ad esempio, secondo lo studio italiano che ha ispirato anche un po' questa puntata, potrebbero prevenire la comparsa di asma e allergie, a trarne vantaggio soprattutto i bambini che soffrono di dermatite atopica. Ma c'è di più: un filone di ricerca molto interessante ne evidenzia l'effetto rasserenante. Sembra infatti che il consumo di probiotici possa migliorare l'umore. Ma professoressa Maria Rita Gismondo, vogliamo capire un pochino se innanzitutto come fanno questi organismi, questi microorganismi così piccoli, ad avere degli effetti così salutari. Dunque, innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra prodotti probiotici che si utilizzano in condizioni anche di salute per mantenere la buona salute e yogurt che invece fanno parte della dieta alimentare. Io ovviamente per la mia competenza mi occuperò dei probiotici, la nostra collega qui presente andrà avanti sull'alimentare. E, mi diceva Nicoletta del così piccoli avere effetti così grandi. Guardi, basti pensare a tutti i batteri che abbiamo nel nostro intestino, sono miliardi ma piccolissimi, e sempre più si sta attestando la teoria che proprio da questi batteri dipenda la nostra buona salute. Quindi i cosiddetti probiotici, probios, come giustamente li ha definiti lei, poi ci sono delle etichette regolarizzate dal Ministero della Salute, cosa possiamo chiamare probiotico e cosa non. Ecco, questi batteri provengono proprio dalla flora intestinale, sono selezionati per le loro attività e vengono reimmessi nella nostra flora intestinale attraverso prodotti che troviamo in farmacia e a volte anche al supermercato. Però bisogna stare molto attenti, perché non bisogna, come si dice, fare di ogni probiotico un fascio, no? Ci sono diversi ceppi, non sono tutti uguali, avranno delle indicazioni, dei meccanismi d'azione, perché noi gli abbiamo messo l'etichetta fanno bene. Infatti, dottoressa Titta, chi uno yogurt al giorno, e poi con tutti i distinguo che la professoressa Gismondo ci farà, perché noi associamo, no, il probiotico allo yogurt, leva il medico di torno, si potrebbe dire così. Chi non inizia la colazione con un vasetto di yogurt, oggi cercheremo però di capire, no, quanto dobbiamo e possiamo aspettarci da un consumo giornaliero di questi prodotti. Lo yogurt assolutamente è uno dei derivati del latte più diffuso e ha tutta una serie di caratteristiche nutrizionali che sono positive, ma il fatto che appunto ce ne siano di tantissimi tipi e con molti altri ingredienti oltre che lo yogurt fa sì che spesso, con la scusa che appunto lo yogurt è un prodotto salutare, se ne faccia un uso diciamo magari scorretto nelle quantità e non si sia attenti all'etichetta. Spessissimo, cioè quasi tutti gli yogurt aromatizzati alla frutta, che contengono frutta, sono molto zuccherati. Un vasetto, per intenderci, di yogurt alla frutta può avere 3-4 cucchiaini di zucchero, cosa che se noi dovessimo zuccherare il nostro barattolino di yogurt bianco difficilmente aggiungeremmo 3-4 cucchiaini di zucchero, magari uno metterebbe 2, adesso non so, dipende dai gusti. Sono anche troppi. Sono anche troppi, quindi per dire, siccome è freddo, si sente meno il dolce, è molto ben solubile, non ci si accorge, ma si introduce un eccesso di zuccheri. Quindi bene lo yogurt, noi consigliamo sempre yogurt bianco con aggiunta di ingredienti che ci piacciono, frutta pezzi, frutta secca, appunto anche eventualmente anche un po' di zucchero. Che ero sempre meglio aggiunto da noi che aggiunto dall'industria. Professoressa Gismondo, poi parleremo naturalmente anche di latte, perché sullo yogurt più o meno siamo tutti d'accordo, ma sul latte si accendono, infuocano le polemiche. Esatto. Allora, lasciamole infuocare, intanto ci prendiamo una pausa, sentiamo il traffico, dopodiché abbiamo invitato anche un uomo in questa puntata, perché non vorrei che pensassero stamattina che li abbiamo proprio completamente trascurati. Lo saluto subito, Cesare Baldrighi, presidente del settore lattiero caseario di Fedagri Agri Conf Cooperative. Buongiorno Baldrighi. Buongiorno, buongiorno. Pronto? A voi. Eccoci qua, grazie. Le chiedo ancora un minutino di pazienza, il traffico, poi andremo anche all'universo mondo economico legato a questo settore. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Cuore e denari. E allora, come dicevamo, in Italia circa 24 milioni di famiglie consumano yogurt e gli acquisti medi sono di circa 14 kg annui per nucleo familiare. Il consumo avviene in diversi momenti della giornata, ne parlavamo poco fa, colazione, fuoripasto, un fuoripasto considerato salutistico, a pranzo come soluzione fresca, leggera, merenda, come mini dessert a fine pasto. Ma che qualità consumano le famiglie italiane? Come viene prodotto? Da dove viene lo yogurt che mangiamo? Siamo curiosi di sapere come funziona anche la produzione dello yogurt del nostro paese, perché c'è una discussione in corso sul tema della produzione di yogurt con latte in polvere, un dibattito che non riguarda solo lo yogurt ma anche i formaggi più comuni. Allora Baldrighi, vengo subito a lei con la prima domanda di oggi. Proprio ieri, peraltro, yogurt a parte, è stata la grande giornata della protesta degli allevatori al Valico del Brennero. Si parlava anche di questo argomento? Beh, Baldrighi, questo è l'argomento più caldo, sì. Direi che questo è l'argomento più caldo, quello delle proteste che ieri si sono verificate sia al Brennero e soprattutto a Bruxelles, quando in occasione dell'incontro dei ministri dell'agricoltura è stato un consiglio straordinario che aveva proprio l'obiettivo di analizzare la difficile situazione economica in generale del comparto agricolo e particolarmente del settore lattiero caseario. È una difficoltà generale che si sta manifestando in tutta Europa, direi con delle quotazioni anche nel resto del mondo particolarmente basse dei prodotti lattiero-caseari, e questo ha ingenerato le manifestazioni di ieri. Torniamo al tema di oggi, che comunque in qualche maniera hanno fatto anche la loro comparsata indirettamente in queste manifestazioni di protesta al Brennero e a Bruxelles. Allora, ieri la sua organizzazione mi ha inviato delle tabelle molto interessanti che ci fotografano lo stato di salute del consumo di yogurt in Italia. Ce le racconta lei queste cifre, dottor Baldrighi? Che tendenza c'è nel nostro paese? Abbiamo avuto, mi pare, un primo trimestre in calo per quantità e valore, poi un secondo trimestre in recupero. Questo andamento è dovuto a quali fattori? Stagionali anche? Beh, diciamo che le percentuali di scostamento tutto sommato sono percentuali piuttosto modeste, per cui certamente un po' di stagionalità, come c'è in tutti i prodotti alimentari, c'è anche nello yogurt. Lo yogurt ha vissuto negli ultimi 10 anni, direi, una stagione decisamente florida, perché gli incrementi nei consumi sono stati significativi. Consideriamo che non era un prodotto proprio così abituale e tradizionale nelle famiglie italiane, e oggi invece lo è diventato, quindi i consumi di yogurt negli anni hanno avuto uno sviluppo importante. Adesso il consumo si è sostanzialmente stabilizzato, le fluttuazioni che possiamo vedere da queste tabelle sono sostanzialmente legate un po' alla stagionalità. Benissimo, senta, ma rischiamo davvero di consumare dello yogurt prodotto con del latte in polvere, dottor Baldrighi? Ce lo dica subito. Beh, guarda, perché così allertiamo, e come facciamo a riconoscerlo, a sapere? Allora, questo è un strumento delicato, ma se vogliamo altrettanto semplice, cioè noi ci troviamo all'interno di una legislazione comunitaria che permette l'utilizzo della polvere di latte per i prodotti lattiero-caseari, formaggi e quindi anche yogurt. Allora, premesso, mettiamolo proprio come una premessa molto chiara, che tutti i prodotti a denominazione di origine protetta sono fuori da questa polemica, perché c'è l'obbligo imperativo di usare il latte della zona di produzione. Questo quindi vale per il grana padano, per il parmigiano, per lo yogurt, per il gorgonzola, per il taleggio, per l'asiago, quindi per tutti i formaggi DOP che non sono interessati da questa vicenda. Tutti i formaggi generici possono essere fatti anche con il latte in polvere. La legislazione della Comunità Europea lo permette, la legislazione nazionale lo vieta. Questo crea due storture fondamentalmente nel nostro mercato. Una è una stortura legata all'industria di trasformazione, che si trova in uno svantaggio competitivo nei confronti dell'industria che sta fuori dall'Italia e che quindi può usare questa tecnologia. La seconda distorsione importante invece è tutta sulle spalle del consumatore, che consuma prodotti importati dall'Europa, potenzialmente fatti con latte in polvere, non è detto che questa tecnologia venga da tutti utilizzata, e che non conosce l'evento di questo fatto perché non è evidenziato in etichetta. Quindi una battaglia da fare intanto potrebbe essere quella, dopodiché valutiamo se continuare anche a portare sul mercato appunto prodotti di questo tipo. Adesso ci torniamo, Baldrighi. 800 24 00 24, tante domande su questo alimento, anzi su questi alimenti, perché noi oggi vogliamo parlare di yogurt, capire un pochino anche qual è il ruolo dei probiotici, capire se ci fanno bene, in che misura, se sono tutti uguali, e affrontare anche il grande tema del latte. Professoressa Gismondi, inizio subito a passarle qualche telefonata dei nostri ascoltatori, perché non vogliamo trascurarli quando siamo a Expo. Ne abbiamo proprio uno per la dottoressa Tite e uno per la professoressa Gismondo. Andiamo, partiamo da Iralda, che ci chiama da Ravenna. Buongiorno Iralda. Buongiorno, senti, io ho 2 o 3 domande da fare, voglio essere sbrigativa perché ci saranno tante persone che vogliono telefonare. Allora, io mangio uno yogurt bianco al mattino, no, uno yogurt con la frutta al mattino. Io sono una che ho 250-260 di colesterolo, però non voglio prendere medicine per il colesterolo. Ho sentito che sarebbe meglio lo yogurt bianco, e questo è già molto importante. E poi quando leggo nelle confezioni dice aromi, non dice mai aromi naturali in niente. Io bevo anche una bevanda di soia e dice sempre aromi, mai aromi naturali. E poi il latte totalmente scremato va bene oppure non sa di niente? Non ha, allora, tante domande a cui la dottoressa Titta risponderà tra poco. Arrivano tantissime domande anche per la professoressa Gismondo. Che cos'è esattamente il probiotico? Chi si può fregiare di questo appellativo, di questa etichetta? Intanto continuate a chiamarci, ci sono ascoltatori che chiedono: ma allora se prendo i probiotici riduco il colesterolo, il cuore ci guadagna, come destreggiarci tra le varie proposte che troviamo anche negli scaffali del supermercato? Oggi facciamo chiarezza, ma adesso dobbiamo lasciare la linea al giornale radio. Intanto salutiamo anche gli ascoltatori che se lo producono in casa per bypassare tutta una serie di problemi, speriamo che non se ne presentino altri naturalmente, però in realtà ci sono le tecniche casalinghe anche ottimali. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Cuore e denari. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa. Latte ma anche yogurt. Ne stiamo parlando oggi a Cuore Denari insieme a Cesare Baldrighi, presidente del settore lattiero caseario di Fedagriconf Cooperative, con la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, e con la dottoressa Lucilla Titta, ricercatrice e nutrizionista del progetto Smart Food promosso dallo IEO. Un numero verde per parlare di prodotti che sono bianchi, tranne quelli alla frutta, lo yogurt alla frutta che è un pochino più colorato e su cui vorremmo fare chiarezza: che cosa contengono, quanto sono preziosi per la nostra salute. Naturalmente affrontiamo il tema dal punto di vista della salute, del benessere e della ricerca. Ci sono delle ricerche molto interessanti di cui parleremo con la professoressa Gismondo, ma anche dal punto di vista economico. Abbiamo sentito della protesta degli esponenti del settore agricolo, e quindi stamattina abbiamo deciso anche di fare un focus un po' su chi opera nel mondo del lattiero caseario, con appunto il dottor Baldrighi del mondo delle cooperative dell'agroalimentare, molto vivaci peraltro nel nostro paese, e quindi parleremo anche dei produttori di yogurt, se magari ci faremo dare qualche suggerimento su dove andare a cercare il miglior produttore per un prodotto appunto che viene fatto a livello artigianale, quindi se abbiamo anche tutte le garanzie di poter acquistare un prodotto in totale sicurezza. 800 24 00 24, un numero verde a cui si stanno rivolgendo molti dei nostri ascoltatori. Rispondiamo, dottoressa Titta, anzi risponda lei, alla nostra ascoltatrice che ci raccontava un po' il suo modo di consumare anche le quantità di yogurt e di latte. Dottoressa Titta, che così diamo delle indicazioni generali per le persone che ci stanno ascoltando. Sì, quello che chiedeva, appunto, che aveva anche già capito che è meglio consumare yogurt bianco, non zuccherato, sottolineo perché ci sono anche in commercio molti yogurt bianchi addizionati di zucchero d'uva, che è sempre zucchero, quindi yogurt bianco o magro, intero, greco, come ci pare, con l'aggiunta dei nostri ingredienti preferiti, frutta, ma anche sentivo marmellata, un ascoltatore, un cucchiaino di marmellata, perché no, quando è inverno, quando non abbiamo magari meno frutta fresca, frutta secca, quello che più ci piace aggiungere. Questo è il modo ideale per consumarlo, la mattina, a merenda, spuntino, è un prodotto molto versatile. La seconda domanda che ritorna anche nei messaggi è: il latte intero, parzialmente scremato, se si decide di consumare, poi vedremo anche delle alternative al latte vaccino. Il latte vaccino, c'è un lei suggerisce il latte magro, si può invece utilizzare il latte intero che è più saporito? Il latte vaccino è di, diciamo, ha dei contenuti a seconda delle categorie merceologiche molto precise. Il latte intero contiene circa il 3% di grassi, 3,5, varia a seconda quello anche di alta qualità, e il latte parzialmente scremato è l'1,5, quindi abbiamo una variazione di 2 grammi per 100 ml di grassi, che voglio dire non è che fanno proprio la differenza. Se amiamo molto il latte intero, è una questione di gusti ed è un sacrificio bere il latte parzialmente scremato, magari insomma facciamo attenzione alla porzione, che è, ricordo, 125 ml, quindi come un bicchierino di yogurt, e consumiamo latte intero. Se invece ci piace anche quello scremato, parzialmente scremato, non ci sono delle ragioni per fare questi distinguo, questi per privarsi, perché in realtà poi se prendiamo il latte, come molti fanno, consumano il latte parzialmente scremato o addirittura scremato, che diciamo risente molto nel sapore, e poi si mangiano 50 grammi di formaggio stagionato che ha invece il 30% di grassi, quindi noi facciamo sacrifici a volte dove non sono necessari. Esatto. Professoressa Gismondo ci racconterà di questi probiotici che abbiamo lasciato lì un po' in mezz'aria, perché sono diversi, hanno delle caratteristiche diverse. Assolutamente. Abbiamo aperto con questa ricerca perché sembrano un po' degli 007, sembrano capaci di fare tutti. In realtà non c'è il rischio un po' di esaltare un po' la loro azione e di confonderci un po'? Lei oggi dovrebbe aiutarci a capire un po' se c'è il probiotico che fa per noi, al caso nostro. Bisogna stare molto attenti, perché è facile generalizzare. Probiotici fanno bene alla salute, non tutti, e non tutti per tutto quello che chiediamo di benessere. Innanzitutto mi piace tornare alla definizione di probiotici che ci ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono microorganismi vivi che, somministrati in quantità adeguate, e questo fa anche la differenza con gli yogurt, perché i probiotici che troviamo, dico, in farmacia, io sono un po' restia a comprarli al supermercato, ci sono altri problemi che insomma sarebbe troppo lungo qui descrivere. Io preferisco acquistarli in farmacia. Comunque, in quantità adeguate conferiscono un beneficio all'ospite. Quindi sono bustine? No, sono bustine, sono compresse, sono liofilizzati, sono delle capsule che si recuperano in acqua. Ci sono varie forme. La forma nella quale si presentano non condiziona l'attività. La cosa che si richiede è che abbiano almeno, garantiscano la quantità dichiarata, almeno per 2 anni. Quindi alcuni richiedono la catena del freddo, altri no, dipende dalla loro produzione. Ma quello che è importante è anche sottolineare che la caratteristica di salute che esaltano, attenzione, non sono dei farmaci, quindi a parte la diarrea, per la quale c'è un'evidenza clinica confermata a livello mondiale, gli altri sono effetti di miglioramento o coadiuvano altri farmaci o ci permettono di migliorare il nostro stato di salute. Non parliamo di farmaci perché ovviamente sono altra cosa, però è importante capire anche che, grazie a numerosi studi che sono stati fatti, la stessa specie può, con varianti all'interno della stessa specie, dare effetti diversi. Faccio un esempio banale: nella mia famiglia ho 2 figlie, una fa l'architetto, l'altro si interessa di nutrizione, sono tutte e due mie figlie, ma fanno 2 cose diverse, non e perché così abbiano lo stesso cognome. Ecco, nei batteri è la stessa cosa, possiamo trovare delle specie con delle caratteristiche assolutamente comuni, hanno la stessa casa, tra virgolette, nell'intestino umano, perché preferibilmente i probiotici devono provenire dall'uomo, dall'intestino umano, però possono avere caratteristiche completamente diverse. Quindi è inutile esaltare la specie che fa bene. Alcuni ceppi di quella specie fanno bene per alcune caratteristiche, altri per altre. Come fare a capirlo? Lasciarsi consigliare. Ancora una volta, è vero che è un prodotto di autoprescrizione, ma io direi, inizialmente fatevi consigliare da un medico competente. Poi l'autoprescrizione significa: non vado a farmi fare la ricetta ogni volta che voglio comprarlo, o se ho la stessa voglia di assumerlo posso farlo spontaneamente senza incorrere in effetti collaterali. Però ecco, dobbiamo essere molto chiari e non crearci delle aspettative che sono un po' degli scoop pubblicitari. Quindi, per carità, tutte le ricerche ben vengano, perché non c'è limite alla ricerca, però prima di affermare che il probiotico o il dato probiotico è applicabile in alcuni stati di diciamo borderline tra la salute e non, o comunque addirittura in problemi di salute, aspettiamo. Io ho sentito dire probiotici che curano il cancro, per carità, non inferiamo in queste patologie, contro questa gente che ovviamente poi si crea delle certo. attese assolutamente infondate. Che aspetti interessanti, infatti, devo dire molto apprezzati anche dai nostri ascoltatori, si stanno mettendo in tanti in fila al nostro telefono appunto per darci la loro testimonianza sul consumo di yogurt, latticini, come lo consumano, dove lo acquistano e quant'altro, a che tipo anche di alimentazione si sono convertiti. Il latte di soia ovviamente si sta aprendo anche questo grande capitolo, la bevanda di soia, non si brava. Dice latte. Volevo stuzzicare un po' Cesare Baldrighi su questi argomenti, perché mi chiedo, Baldrighi, poi io le avevo anche anticipato che le volevo dare qualche suggerimento qualora andassimo dal nostro formaggiaio di fiducia, che magari produce direttamente yogurt, oltre che prodotti del settore lattiero caseario, come individuare anche l'azienda che fa per noi. Ma le volevo anche chiedere, tra l'altro Baldrighi, non te l'ho raccontato, è anche presidente del consorzio Grana Padano, Nicoletta. Sì. Quindi ha anche un ruolo di rappresentanza di una fetta dell'industria dell'agroalimentare italiana molto importante. Ma qual è il vostro rapporto con i nutrizionisti? Come vi confrontate con questa comunità su questi temi, Baldrighi? Evidentemente Parli liberamente, perché la dottoressa Tita la teniamo calma noi. No, ma io ho seguito con interesse tutta la trasmissione e vero, dire che no, siete perfettamente consapevoli di come sta andando il dibattito sul consumo di determinati alimenti. C'è un cambio molto consistente di abitudini alimentari da parte di molti italiani, però il vostro settore va bene comunque. Beh, direi che in realtà l'argomento che voi state affrontando sul consumo di yogurt e quindi di latticini è un argomento di grandissima attualità. E una delle preoccupazioni proprio del settore caseario è il fatto di avere rilevato una riduzione sensibile nel consumo di latte. Cioè, mentre lo yogurt, dicevamo prima, ha una sostanziale tenuta nei consumi, il latte sta segnando una diminuzione di consumo piuttosto significativa a favore dei sostituti di latte, che sono le bevande di soia, bevande di riso, eccetera. Quindi è latte vegetali. E quindi sì, bevande questo di origine vegetali che... Sì, mi scusi Baldrighi, la dottoressa Tita, no, per fare un piccolo inciso. Sì. Un piccolo inciso, questo si è verificato un po' per moda, no? Perché ci sono molte persone che hanno cambiato così, ma anche perché si è verificato che una gran parte della popolazione è intollerante al lattosio, e quindi mentre nello yogurt è quasi non presente perché è metabolizzato dai microrganismi, nel latte è presente 4-5% di lattosio, e quindi gli intolleranti al lattosio. Esatto. Adesso c'è una diagnostica migliore, si è molto più diffusa l'informazione, e quindi molte persone l'hanno eliminato per questo motivo. Sostituito con latte vegetale. Tanto è vero che l'industria mette sul mercato anche questi prodotti che eliminano il problema lattosio. Esatto. Baldrighi. Sì, è vero, ci sono i prodotti delattosati, c'è questa tesi sull'intolleranza al lattosio, sulla quale io devo dire sinceramente ho avuto molte perplessità, perché mi sembra veramente strano che nel giro di pochi anni la percentuale degli intolleranti al lattosio sia aumentata in modo così importante. In realtà si misura scientificamente, è l'abitudine a consumare il latte che mantiene la capacità dell'organismo di continuare a digerirlo. Perché la mancanza dell'abitudine porta un po' alla volta il nostro organismo ad abbandonare l'enzima lattasi o a produrne in quantità minori. E quindi qua non mi avventurerei, dottor Baldrighi, in queste letture molto scientifiche che lascerei, mi permetta, agli esperti che misurano, come diceva la dottoressa Tita, proprio questa sorta. Lei dice che comunque la moda ha messo un po' un piede sull'acceleratore. Sì, sì. Questo sì, è il parere del dottor Baldrighi. Ovviamente, ed è l'elemento che noi vorremmo cercare di contrastare, che stiamo cercando di contrastare, e lo facciamo attraverso i professionisti che conoscono perfettamente la materia. E c'è sempre un contatto estremamente fitto fra i produttori di latte e le loro organizzazioni, lo stesso nostro consorzio ha un sito dove si occupa di nutrizione e che viene tenuto sostanzialmente da chi ha competenze, certo, in questa materia, per poter trasmettere le informazioni corrette. Poi evidentemente ogni individuo deve saper scegliere la dieta che più a lui si adatta, che può contenere in varie dosi latticini, formaggi, a seconda del proprio organismo, ma l'importante è che ci sia che l'informazione passi in modo corretto, e in questo modo credo che anche le mode o gli elementi di carattere commerciale possono essere significativamente superati. Ma quanto, dottoressa Ditta, sono aumentati gli intolleranti al lattosio? Sono aumentati tantissimo, ma non c'è stato un aumento degli intolleranti al lattosio, c'è stata la diagnostica dell'intolleranza al lattosio. Adesso vorrei sottolineare, per correttezza, proprio per dare un'informazione, che l'esame di intolleranza al lattosio è un esame riconosciuto dalla comunità scientifica, dalla comunità medica, che è praticabile, si fa attraverso il blood test ed è assolutamente non è un esame delle intolleranze alimentari, no, come sentiamo, è una cosa praticata in ambiente sanitario e riconosciuta. È vero, come diceva appunto nell'intervento, che magari c'è una sovrastima, che magari le persone da sole si diagnosticano l'intolleranza, sì, al lattosio. Certo. Però c'è modo di misurarla in però modo in rigoroso. Realtà, la crescita degli intolleranti non è dovuta solo a questo, ci può essere una piccola percentuale. Benissimo. Professoressa Gismondo voleva aggiungere. No, assolutamente consolidare questa informazione che condivido, ma non per una condivisione personale, per una condivisione assolutamente scientifica consolidata. È un po' l'iceberg, no? La punta dell'iceberg. Più miglioriamo le nostre diagnostiche, più quest'iceberg va a galla. Quindi in molte patologie si dice ora tutti muoiono di cancro. No, beh, ora il cancro sì, grazie al cielo, diagnostica e anche precocemente. È anche sicura. E quindi è anche sicura, infatti. Quindi molte patologie hanno un'incidenza maggiore grazie al fatto che riusciamo a diagnosticarle. Prima basta pensare a 50 anni, 60 anni fa, per esempio, non si diagnosticava l'epatite C, si moriva di cirrosi senza sapere che ma cosa anche fosse. Pensiamo, certo, ad esempio alla celiachia. Adesso c'è un boom di celiachia, beh, hai pensato anche tu, uguale. E tutti dicono ma com'è possibile, sono diventati tutti celiachi, no, è cambiato il glutine, come mai? Adesso c'è anche la sensibilità, no, oltre che l'intolleranza permanente, certo, sicuramente ci sono delle indagini che permettono, ci sono state delle persone che hanno centrato la diagnosi a 50-55 anni dopo aver sintomi così gravi, per esatto, cui c'è tutta una gradazione di sintomi che molte volte non ha neanche portato alla diagnostica, si accusava un fastidio, sì, ogni tanto, ma non si riconosce. Quali sono i segnali di una intolleranza al lattosio? Generalmente sono problemi intestinali, perché certo, in realtà appunto non avendo un enzime lattasi efficiente per la digestione del lattosio, che è, deve essere scisso, no, in galattosio e glucosio, allora ci pensano i microrganismi intestinali a digerirlo, di quindi si produce, certo, CO2, si hanno gonfiori addominali, aria, quindi si ha una sensazione e di anche mal di testa, anche mal di testa, insomma ci sono varie sintomatologia, differente sintomatologia. Quello che vorrei dire, vorrei rassicurare da una parte, cioè io vorrei dire appunto che non abbiamo nessuna evidenza convincente a livello scientifico per sconsigliare il consumo di latte, proprio parliamo di latte. Dall'altra parte non se ne fa una tragedia se una persona non lo può consumare per un'intolleranza, certo, o per una scelta propria o perché c'è un'allergia, che è un altro problema. In quel caso ci sono molti prodotti che possono, di origine vegetale, che possono apportare calcio nelle adeguate quantità, che possono apportare proteine, quindi come dire, non è una tragedia se non si beve latte o si sceglie di non bere latte, né noi né ci consigliamo sono dei motivi l'uso. Assolutamente. Allora, e lo yogurt fatto in casa, adesso apriremo il grande capitolo, vediamo. Sentirne parlare. La professoressa Gismondo ci dice così. Io ho comprato la yogurteria a mio cognato l'anno scorso. Beh, adesso al cognato si può, ma lei non lo usi. Sentirei Lorenzo da Palermo, abbiamo anche la borsa, tra un po' però gli ascoltatori sono un po' in attesa da qualche minuto. Lorenzo, benvenuto. Buongiorno. Senta, eccoci io volevo fare questa domanda. Da qualche anno prendo lo yogurt ogni giorno, quello bianco, e ho sostituito il latte con la bevanda di soia e riso, un po' quello che dite voi. Ma non l'ho fatto né per intolleranza al lattosio, assolutamente, ma perché c'è un tambureggiamento, mi riferisco soprattutto al latte, di notizie, perché è il grasso. La vedo Baldrighi che annuirà, ecco, vedi quello che l'avevo detto io. Ma le dirò, tra l'altro il mio colesterolo è sui 150-155, quindi un dato tutto sommato, un dato buono rispetto ai parametri, diciamo, canonici. Allora mi chiedo, ma effettivamente ci sono questi condizionamenti? Faccio un ragionamento molto semplice. Penso, una volta il latte del seno materno non si doveva dare perché quindi c'erano tutti questi latti in polvere che si compravano, poi si è scoperto che il latte materno era buono, il migliore, e così via. Potrei dire lo stesso dell'olio. Ripeto, io per notizie, tutti questi inserti che i giornali, voi stessi pubblicate, eccetera, dicono che ha il fatto grasso del latte. Sì, ho fatto questa scelta, anche e perché si trova bene. Mangia lo yogurt e beve il latte vegetale. Fa un po' e un po'. È un no? po' e un po'. Insomma, allora, come la professoressa Gismondo. Sì, ma per altri motivi, perché la soia aiuta molto le donne, soprattutto le donne over 50. Perché ovviamente aiuta ad affrontare alcuni disturbi della menopausa, e quindi bombardarsi con soia può fare bene. Vero, dottoressa? Ma tra l'altro anche soia non si può abusare, da quello che capisco, perché può provocare nel lungo periodo anche un po', no? Come per tutti gli alimenti. Dai, è nella dose che sta il veleno, non finirò mai di dirlo. Però sì, quello di variare è un'ottima idea, perché comunque anche i latti vegetali apportano delle loro nutrienti peculiari, certo. Quindi non eliminare il latte vaccino, ma consumarlo, che ne so, 3 volte alla settimana, e poi gli altri giorni invece provare i latti vegetali, sempre guardando l'etichetta, perché non significa il fatto che sia vegetale che vada bene, che sia perfetto. Bisogna guardare, molti sono zuccherati, molti hanno oli un po' strani, insomma. Quindi leggiamo sempre l'etichetta. Sempre leggendo l'etichetta, anche dei prodotti a base di soia, assolutamente. Variare è un'idea. Certo. Diversificare c'è la parola. Brava, infatti, allora adesso c'è la borsa, però magari Baldrighi poi 2 commenti su a questo punto, se c'è una nuova produzione in Italia di latti vegetali, se potrebbe essere quella la nuova frontiera anche del settore agroalimentare italiano, come sta andando questo mercato, che ovviamente i grandi produttori del settore lattiero caseario digeriscono, e non perché sono intolleranti, a fatica, però è un mercato che c'è e che pertanto va pienamente rispettato. Ci abbiamo fermiamo? Poi i nostri ascoltatori, tanti. Io sono senza occhiali, ma vedo Mauro da Milano, sì. Antonio da Firenze, un commento di Serena. Su Twitter, insomma, 800 24 00 24, chiamateci. Cuore e denari. Ognuno di noi è un centro di ruota che rende partecipi di un meccanismo che gira. E molto dipende da noi. Passiamo attraverso milioni di istanti. La vita davanti è un mistero, un'ipotesi, un sogno che allora, va. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Cuore Denari oggi ospite ancora una volta di Cibus e Italia Expo 2015. Parliamo di latte, yogurt e derivati dal punto di vista del cuore e dei denari. Naturalmente stiamo scandagliando un po' non solo lo stato di salute dei consumi di latte e derivati nel nostro paese, anzi abbiamo marginalmente toccato questo argomento. Quello che è stata la piega del dibattito negli ultimi minuti è stato anche l'aspetto un po' dell'enfatizzare determinati problemi di salute che deriverebbero dall'utilizzo eccessivo anche di latte, ma c'è anche chi è intollerante perché appunto il lattosio non riesce a scindere a livello di metabolismo, e quindi naturalmente l'industria un po' deve dire la sua anche su questo. Abbiamo sentito le considerazioni appunto di Cesare Baldrighi poco fa, che vorrei sentire anche a proposito, dottor Baldrighi, della produzione di latti vegetali, perché so che l'industria si sta attivando anche su questo mercato, è necessario farlo, bisogna rispondere alle esigenze nuove del consumatore, anche se appunto lei prima ha espresso tutte le sue riflessioni sul fatto che qualcuno magari va sul consumo di questi prodotti un po' spinto dal dibattito più che da esigenze, diciamo, di salute, no Baldrighi? Sì, sono inevitabilmente due elementi che si sommano, e la telefonata dell'ascoltatore di prima è stata in questo senso abbastanza così chiara. L'industria evidentemente si sta organizzando perché, come giustamente lei sottolineava, dovendo rispondere alle esigenze del mercato, la diminuzione di consumo di latte da un lato viene in qualche modo compensata dalla produzione di bevande sostitutive. Cioè. Quello che vorrei puntualizzare solo un attimo, poi non ci lamentiamo magari se non consumiamo prodotti del Made in Italy, perché la soia italiana o la mandorla italiana, non so quanto potremmo sostenere anche, dottor Baldrini, che non so, magari il latte è quello italiano. Chiuso l'inciso della Rosciani. No, esatto. Ma il latte è certamente italiano, specialmente il latte a alta qualità, che deve venire tutto da allevamenti vicini all'industria di trasformazione. Evidentemente la soia è sostanzialmente tutta importata, perché la produzione in Italia in generale nella comunità economica europea è modestissima. L'indicazione che io ritengo assolutamente cruciale, che veniva proprio dalla dottoressa che avete in studio, riguardo l'attenzione sull'etichetta, io ritengo che sia cruciale. E il tema dell'etichetta e della evidenza di ciò che entra in questo tipo di bevande, ma possiamo ricondurlo anche al tema iniziale dell'utilizzo di latte in polvere, è determinante. Come io dicevo all'inizio, il latte in polvere, il suo utilizzo è ammesso in tutta la comunità europea. In Italia importiamo, consumiamo circa 100 milioni di quintali di latte, equivalente latte, latticini importati dalla comunità, potenzialmente fatti con questa tecnologia. Risulterebbe particolarmente difficile oggi, anche se sarebbe auspicabile, poi insomma, dal mio punto di vista, diciamo da allevatore, oltre che da conoscitore del settore, vietarne l'utilizzo. Questa non è una tesi oggi all'ordine del giorno della comunità, ma la comunità ha aperto una porta importante sull'obbligatorietà di indicare l'utilizzo della polvere nei prodotti lattiero-caseari. E questa, secondo me, sarebbe davvero la strada maestra. Benissimo, oggi noi li consumiamo e non lo sappiamo. E infatti, mi pare questo, invece, che abbiamo tutto il diritto di sapere, quantomeno questo ci sembra il minimo sindacale. Io peraltro questa settimana sono di bevanda di farro, adesso stavo pensando, può andare bene, me la promuovete? Perché no, sempre leggendo l'etichetta. Io ho bevuto il latte di anacardi, che era una cosa incredibile. Professoressa Gismondo, lei che latte sta assumendo? Io bevanda di soia, perché non si può chiamare latte. Sì. Bevande di soia. E mi piace, non lo faccio per altri motivi. E allora mi dica se al nostro intestino piacciono, noi utilizziamo, consumiamo naturalmente yogurt e prodotti vari anche con l'obiettivo di rendere felice l'intestino. Tra l'altro il libro ha avuto L'intestino felice, è stato un best seller, ne stiamo parlando e ne abbiamo parlato anticipatamente, anche perché in tante puntate di Cuore Denari i nostri esperti ci hanno aiutato a far passare questo messaggio, è che l'intestino è un organo da cui dipende la nostra salute, dipendono la nostra salute e il nostro benessere. Chiamiamolo secondo cervello, perché all'interno contiene molte cellule del sistema immunitario, e se noi facciamo stare bene il nostro intestino, e sicuramente i probiotici lo aiutano, ci guadagniamo. Ma professoressa Gismondo, in che modo? Quali attenzioni devono essere fatte, e possiamo sostenere un ruolo preventivo dei probiotici per alcune malattie che possono colpire l'intestino? Penso anche al tumore del colon retto, ad esempio. Assolutamente sì, bisogna essere cauti come sempre. Citavo poco fa uno studio fatto nei paesi scandinavi, che sono stati all'avanguardia per questo tipo di utilizzo, una popolazione che utilizzava circa 300 o 400, adesso non ricordo, grammi di yogurt al giorno. A lungo termine l'incidenza delle neoplasie intestinali era molto più bassa in questa popolazione che non nel controllo che non l'assumeva. Allora, l'intestino felice è il centro della nostra felicità. Uno, perché i disturbi intestinali sono veramente molto molto fastidiosi e incidono nella nostra vita sociale. Basti pensare alla diarrea del viaggiatore. Certo. Si possono passare 3 giorni chiusi in camera perché appunto si sta male con l'intestino. Il viaggio. E poi anche perché a lungo andare dall'intestino possono partire delle sostanze, dei metaboliti tossici, che possono essere tossici addirittura tali da poter incidere in maniera rilevante sull'incidenza del cancro al seno. C'è uno studio che dice che donne che prendono contraccettivi, se assumono probiotici, hanno un'incidenza di cancro al seno molto inferiore del controllo. Quindi, riassumendo, molto attenti a non generalizzare. Qualsiasi probiotico non fa bene a tutto, dobbiamo fare una scelta su quello che noi vogliamo dal probiotico, farci consigliare, leggere bene l'etichetta e prendere quel dato probiotico. Probiotico che può prevenire la diarrea se ci rechiamo in paesi con climi diversi, probiotico che migliorano la pelle. Io questo lo dico alle amiche radioascoltatrici, i probiotici alcuni migliorano moltissimo la pelle. No, e quindi quali sono? Nome e cognome, nome e cognome. Indirizzo anche Lo farò in privato. Comunque, in generale, anche l'utilizzo dello yogurt, sappiate che lo yogurt viene usato anche per come creme facciali, sì. E vi dirò, su quello eravamo prontissimi, ecco, in anteprima che c'è pronto un probiotico che ha sensibilmente ridotto, dopo l'utilizzo solo di 3 mesi, il colesterolo in alcuni soggetti volontari. Quindi, è quasi pronto? È pronto, sarà fra poco commercializzato, se ne parlerà anche al congresso che ci sarà a fine settimana a Roma sui probiotici, e devo dire, abbiamo una vasta gamma. Questi probiotici da soli farebbero un supermercato. Ecco, il problema è che adesso noi diamo questa notizia in anteprima, poi uscirà sui giornali, e ricordiamolo che questa notizia è a proposito, l'abbiamo data di, noi a cuore denari, ecco, esatto. Sulla pre-attualità, perché medici e ricercatori, per quanto riguarda la salute, vengono a cuore denari, ci anticipano le ricerche, i risultati che arrivano. E allora vi prometto di tornare se mi inviterete. Certo, perché questo bacillo, questo microorganismo, non dico bacillo, è stato sperimentato da noi all'Università di Milano, e di tornare a parlarne con dati più interessanti, più approfonditi e utili ai vostri radioascoltatori. E ci porterà anche il probiotico in persona, proprio lui. Assolutamente sì, se volete. Lo 007 che può essere a voi utile. Allora, adesso abbiamo il traffico di nuovo, poi abbiamo gli ultimi 15 minuti di tempo a nostra disposizione, tantissimi ancora ascoltatori che vogliono... Che amano anche farsi lo yogurt in casa. Ah, oddio. Già, abbiamo... eccola, la Gismondo niente, non accetta proprio questa abitudine casalinga di molti ascoltatori. Me lo farete dire poi, sì, perché... Sì. Va a bene. Tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Cuore e Denari. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Cesare Baldrighi. Sì, no, l'abbiamo salutato tra l'altro perché è andato. Adesso chiudiamo appunto con le telefonate più legate un po' all'aspetto di salute nutrizionale. Lo abbiamo accompagnato in uscita, però con una bella sigletta che... insomma lo avrà reso anche contento. Ma noi siamo assolutamente d'accordo su questi aspetti, sul tema, figuriamoci poi delle produzioni italiane che devono confliggere continuamente con tutto ciò che arriva dall'estero, un altro gran bel dibattito di cui però comunque i consumatori sono sempre più consapevoli. C'è tutta la questione legata alla stagionalità, la frutta, la fragola che consumiamo, dice, sono temi che peraltro segnalano gli ascoltatori, ma che abbiamo affrontato non una, non due, penso centinaia di volte, per cui ci ritorneremo se però vi appassiona. Allora Mauro, buongiorno da Milano, poi andiamo a Franca, poi abbiamo Antonio, per cui rapidissimi per dare il vostro contributo, la vostra ricetta o per fare la domanda ai nostri esperti. Mauro, benvenuto. Buongiorno, grazie. Mai occasione più ghiotta per rivolgere a voi una domanda che diventa per me un quesito irrisolvibile. Una carissima collega mi regala il principio attivo di qualcosa che è risultato a me e ai miei familiari un quesito direi esotico, e parlo di kefir. Io sto convivendo molto simpaticamente con questo principio attivo senza sapere però come poterne assumere e quando poter assumere il sottoprodotto, diciamo l'elaborato di questo batterio, penso, non so se sia così. Quindi rivolgo a voi questa domanda e attendo illuminazioni in merito al kefir. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Mauro. Carino Mauro, eh? Allora mettetevi al lavoro, prof. Dott. Professoressa Gismondo, partiamo. Kefir è un latte fermentato che viene da un'antica tradizione. Uh-huh. Fa addirittura le radici del latte fermentato sono il Plinio il Vecchio, sì, che ha scritto un libro di ricette dove parlava del fatto che il latte per lui non era latte fermentato, non conosceva i fermenti, ma comunque questo latte è andato a male, era ottimo per ricostituire le energie del guerriero o della gente che era priva di energie. Aveva ragione il povero Plinio, insomma, e ha precorso i termini. Dunque il nostro radioascoltatore può tranquillamente assumere, in questo voglio che la collega mi dia atto, quel suo kefir. Ovviamente anche là non prenderà kefir dalla mattina alla sera, se no gli effetti collaterali saranno evidenti, potrebbe avere delle diarree, potrebbe avere gonfiore allo stomaco. Se lo prende con una certa modigerazione, tezza, sì, li fa bene, perché non avrà gli stessi effetti di uno yogurt, perché è un latte fermentato. Diciamo che la dose si può assimilare a quella dello yogurt. Un vasettino, esatto, 125 grammi. Sì, certo. Una, certo, tazza, sì, un bicchiere, tanto per visualizzare, cioè, arriviamo un anche a 200, insomma. Arriviamo nelle... anche a 200. Andiamo. Aspetta. Antonio da Firenze, lei ci faccia la domanda, poi io la giro con un assist alla dottoressa Gismondo, perché qua chiede a gran voce di parlare delle produzioni casalinghe e dobbiamo naturalmente darle questo spazio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un grande consumatore di yogurt, lo compro magro, quindi 0,1, però poi ci metto la marmellata che produco in casa, prevalentemente di more, molto liquida, e quindi al 500 grammi di yogurt giornaliero di mattina ci aggiungo circa 150-200 grammi di questa marmellata di more fatta in casa. Ma la mangia? Sta bene fino alla mattina dopo? Ma mangia tutto? Sì. Fa molta attività fisica? Perché mi sembrano dosi piuttosto Diciamo che sono un grande lavoratore, oltre che rappresentante, viaggiatore, tutto, quindi insomma mi muovo. Ho la campagna, quindi coltivo. Sì, perché mezzo litro, sì, però mezzo, stiamo parlando mezzo di mezzo litro yogurt, più l'aggiunta di... Vabbè, allora bene, Antonio, però... la marmellata fatta in casa sì, dottoressa Gismondo, guardi, e lo yogurt sì. No? Com'è io la marmellata questa? La produco, quindi non posso essere la produco nel senso che la preparo a casa quando la frutta è fresca. Ovviamente frutta fresca e non trattata, non quella commercializzata, perché ha conservanti e trattamenti superficiali. Ma al di là di questo, la marmellata ci protegge proprio per l'alto contenuto zuccherino da una serie di batteri, e quindi fa una sorta di autosterilizzazione è errato dal punto di vista tecnico, ma ha un potere antibatterico. No, lo yogurt, per carità. Il latte è uno degli alimenti prelibati dei batteri. Quindi inseriamo la nostra polverina, che è la madre, diciamo così, che abbiamo prodotto già precedentemente, ma attenzione, inseriamo anche batteri che si possono trovare nella nostra cucina, nelle nostre mani, nell'aria. Sono. Dopodiché perché questi batteri, assolutamente sì, è inevitabile, non ha niente a che vedere con la pulizia, l'igiene è una cosa, la sterilità è un'altra. Quindi noi qui per esempio stiamo parlando, abbiamo miliardi di batteri che ci stiamo scambiando, e non voglio fare terrorismo. Guardo la faccia della Nicoletta. Quindi metteremmo insieme a questa madre degli altri batteri che nel latte diventerebbero miliardi, miliardi, miliardi. Assunti potrebbero farci del male. Quindi, per cortesia, lo yogurt, quello commerciale, giustamente come diceva la collega, attenzione all'etichetta, attenzione alla produzione, attenzione a cosa c'è dentro, però fatto in una catena controllata e standardizzata di produzione che ci assicura i non effetti collaterali che vorremmo. Non quindi vorremmo. Prepariamo la marmellata fatta in casa e acquistiamo sì. lo yogurt. Perfetto, ecco, lasciamo ecco, la sua capacità suo... di sintesi ecco. È perfetta. Dopo aver controllato attentamente l'etichetta dello yogurt che abbiamo comprato. Perché assolutamente qua gli impegni, imprescindibile. Andiamo in giro con la lista degli impegni prima di fatto comprare. Una volta poi si approvvigionerà di quello e va tranquillo. Anzi, ci si appassiona anche poi infatti. A queste ricerche. Franca da Milano, benvenuta. Buongiorno. Dunque io ho una certa intolleranza al latte fin da quando ero piccola. Esatto, notato... ecco, però perché una certa? O perché... è intollerante o no? No, perché quando bevevo latte, cioè, sentivo che non digerivo bene, cioè non stavo proprio bene. Una sensibilità bene. La chiamerebbe sì, il dottor sì. Speciali, una me. Sensibilità, e che con gli anni poi è anche aumentata, per cui non, la pizza sì. diventa una cosa quasi indigeribile. Va bene, Franca, notato, arrivando al dunque, perché siamo notato, in chiusura. Sì, sì, ho notato però che, per esempio, se bevo latte di montagna con mucche allevate al Sato Brado, lo digerisco molto di più di quello industriale, per cui mi viene il dubbio che forse io non tolleri le sostanze che vengono date alle mucche che vengono allevate industrialmente. Allora, questa non lo so. Allora, tutto è possibile, dando questa, diciamo, facendo questa premessa, tutto è possibile, però appare molto strano, perché l'intolleranza al latte, cioè l'unica intolleranza riconosciuta verso il latte, è intolleranza, ripeto, al lattosio, che è lo zucchero naturalmente presente nel latte. Quindi questo che dà problemi di digestione, oppure esistono delle allergie alle proteine del latte, ma è tutto un altro universo e la reazione allergica non ha niente a che fare con l'intolleranza. Quindi mi sembra un caso. Comunque, a proposito di intolleranze, se siete un po' allergiche, parlo alle donne. Sì. Alla gestione dei soldi. Ma dai. Che da oggi c'è una sorta di vaccino. Perché c'è un libro che è scritto da Deborah Rosciani, che questa... oggi è in edicola, in libreria, Donne di Denari, che ci aiuta a riconoscere grazie. Questa nostra capacità tutta femminile di maneggiare il denaro con intelligenza. Sei invitata ufficialmente a pranzo da me oggi per questa io vado carineria. A comprarlo subito. Grazie mille. De Agostini mille. Editore, noi lo festeggiamo perché è proprio il nuovo nato di Cuore Denari. Intanto adesso salutiamo la professoressa Gismondo, la dottoressa Titta. E adesso sì, stiamo chiudendo, vi salutiamo, torniamo naturalmente domani ancora a Cibus e Italia qui ad Expo, diamo la linea al viaggio nel mondo del biologico. Buona giornata a tutti.